colpa mia, un po' colpa tua, sposiamoci. In una bugia c'è la verità di vivere. Prima che io, prima che tu si cambi idea. E le nostre pagine più belle vengano distratte dagli amanti che fanno di me, fanno di te la fantasia. Che io come te ho ancora paura di perdere le distratte corse libere nei cuori. Colpa mia, un po' colpa tua, tocchiamoci. Nel nostro letto preso e montato di sabato. Passiamo ore a fare e a disfare.